Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette undici minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia. Il tema chiaramente è la cronaca degli effetti anche e soprattutto economici, oltre che sul sistema sanitario nazionale, del coronavirus, le borse. Allora, anche qui la dico subito, sapevamo tutti che le borse avrebbero aperto malissimo, era nell'aria. La Consob ha chiarito che non sono movimenti speculativi, quindi ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per chiudere la borsa. Dice la Consob, non ha evidenza che gli andamenti della borsa italiana siano riflesso di attacchi speculativi. E quindi, salvo che non si voglia attribuire a questo termine la reazione degli operatori alle incertezze sul futuro generate dagli effetti del coronavirus sull'economia. Questi effetti non sono correggibili con decisioni restrittive di borsa e soprattutto se queste avvenissero in modo indipendente dai paesi membri dell'Unione Europea. Che cosa dice sostanzialmente la Consob? Dice che e da questo punto di vista non vi è nessun presupposto per bloccare le sedute di borsa come elementi per elementi speculativi, sono reazioni attese e comprensibili, aggiungo io, dovute alle incertezze che generano gli effetti del coronavirus sull'economia. Ora, da questo punto di vista, devo dirvi la verità, sì, Milano è quella che perde di più, il 9,20% in questo momento. Questa mattina hanno avuto molta difficoltà moltissimi titoli a grande capitalizzazione a essere quotati, cioè venivano sospesi per eccesso di ribasso. Del resto, Tenaris perde il 20% in borsa, Saipem perde il 19,50%, Eni il 19,20%, Unicredit il 13%. Allora, su Eni, Saipem e Tenaris si scatena anche il tema del prezzo del petrolio, perché il prezzo del petrolio è sceso moltissimo oggi e quindi lì, oltre che diciamo, l'effetto generale, c'è un elemento anche in più. Faccio notare che questa mattina anche Hong Kong aveva fatto un tonfo almeno 4,20%. Il petrolio sostanzialmente viene visto in crollo fino a $20 il barile. Oggi ha perso il 23,5% a New York, il WTI sta quotando $31,4 al barile e le conseguenze potrebbero essere molto forti appunto su tutti i titoli legati, già lo sono. Però guardate, oggi è la seduta, adesso stiamo cercando di fare anche il confronto, peggiore per dare i tempi di Lehman Brothers del 2008, e sicuramente la peggiore dai tempi della Brexit, che un calo così forte non lo si vedeva dai tempi della Brexit, meno 9,40%, ancora Parigi meno 7,1%, Francoforte meno 6,70%, Londra meno 6,5%, Dow Jones meno 5%, l'euro si è rafforzato sul dollaro a quota 1,14%, ancora per quello che riguarda i titoli, oggi è veramente un bollettino di guerra, oltre a quelli già citati, Unicredit meno 13,5%, Banco BPM meno 12,80%, ancora Mediobanca meno 12,60%, Biper meno 12%, Atlantia meno 11,90%, Buzzi Unice meno 11,80%, Juventus meno 11,5%, Poste meno 11%, Ubi meno 10%, come Azimut, il 9,5% lo perde Leonardo, ma è il 9,5% anche il calo di Nexi, e poi 9% anche di A2A, il 9% lo perde Fiat Chrysler, Intesa San Paolo meno 8,90%, mi fermo con i titoli che perdono più del 7%, quindi Fiat Chrysler meno 8,80%, Intesa meno 8,70%, Unipol meno 8,40%, Case New Holland meno 8,20%, Generali meno 8,20%, Moncler meno 8,20%, Fineco meno 7,70%, come Italgas, STMicroelectronics meno 7,5%, ERA meno 7,5%, SNAM meno 7,5%, Enel meno 7,20%, Banca Generali meno 7%, come Telecom Italia. Allora, e questo non è il giorno dello sciacallo, attenzione, fosse solo Milano potresti parlare di sciacallaggio, ma nel momento in cui Parigi perde 7, Francoforte perde il 6,70% e via così, il Dow Jones adesso sta prendendo il 5%, mi sembra un po' dura dire che è il giorno dello sciacallo, semplicemente... La borsa poi riprenderà i suoi corsi, li abbiamo già visti, semplicemente si prende atto che contrariamente a quello che anche oggi ha dichiarato Trump, Trump sembra rimasto a quello che si diceva 2-3 settimane fa in Italia, cioè in alcuni ambienti, ma guardate che assomiglia a un'influenza, ci sono più morti per influenza. Il problema forse che a Trump sfugge è la tenuta del sistema sanitario. Oggi ha twittato: lo scorso anno 37.000 americani sono morti per comune influenza e la media è tra i 27.000 e i 70.000 all'anno. Nulla viene chiuso, la vita e l'economia vanno avanti. In questo momento ci sono 546 casi, di cui con 22 morti. Pensate a questo raffronto. Sì, massimo rispetto per Trump, però quello a cui noi assistiamo, che ieri ci ha spiegato in uno speciale che abbiamo organizzato dalle 19 alle 20, anche l'assessore Gallera, è l'assessore al welfare Gallera, è la tenuta del sistema sanitario, cioè non arrivare al dover obbligare i medici a scegliere tra un paziente e l'altro, non è il problema di... E Gallera ce l'ha detto chiaramente ieri, ha detto: attenzione, è vero che in questo momento la mortalità si applica soprattutto, o meglio, nelle fasce anziane della popolazione, ma se no facciamo riascoltare il file eventualmente, attenzione, non ci sono cinquantenni o sessantenni o pochissimi casi di sessantenni, perché li riusciamo a intubare oppure a mettere in, diciamo, con la mascherina oppure direttamente in terapia intensiva. Qualora dovessimo non avere più spazio, cambierebbe il panorama anche per i cinquantenni, i sessantenni e i quarantenni. Quindi attenzione, lo dico perché vedo ancora moltissima leggerezza. Adesso io vi dico una cosa, io manderei veramente a lavorare negli ospedali in questo momento che sono saturi e con un lavoro incredibile che stanno facendo i medici, le dottoresse e i dottori in questo momento. Vi dico l'ultima, mi è arrivato una cosa che non ci credevo, poi siamo andati a verificarla, è vero. Allora, è una pubblicità girata su web, pubblicata anche da vari giornali toscani, in cui si invitano a venire a sciare, non sto scherzando, tutti a sciare. Vieni alla Betone, le nostre piste sono aperte, per i ragazzi lo ski pass è scontatissimo dal 9 al 15 marzo, le feste dello studente, il titolo è: niente scuola, venite a sciare, ski pass giornaliero ad 1 euro a tutti i ragazzi accompagnati da altro sciatore adulto pagante, e preciso pure nati dopo il 1 gennaio del 2005. Il sindaco l'ha annullata, ma io, se trovassi chi ha organizzato sta festa, lo studente, lo manderei a lavorare per un po' negli ospedali che in questo momento stanno saturando, così imparate a divertirvi e a offrire a 1 euro più l'accompagnamento. Ma l'avete capito che si devono evitare gli assembramenti e la distanza deve essere 1 metro? Ho visto le immagini prima alla stazione di Milano, chi vuole andare al sud, per carità, meglio che sappia che poi va in quarantena con la disposizione delle regioni, ma non stavano neanche 1 metro di distanza in fila. Io non so, adesso qualcuno vuole polemizzare sui tagli fatti alla sanità, guardate che i tagli fatti alla sanità, ce ne occuperemo domani, in realtà non sono tagli veri e propri, ma sono meno soldi rispetto alle richieste fatte dalle regioni, non è che il numero sia calato, ma ne parleremo. Sì, qualcuno se la sta pigliando con l'evasione, con i centri sociali che stanno contestando davanti, sì, mi mancavano solo i centri sociali davanti a San Vittore, se anche loro se ne andassero a casa e stessero a fare il centro sociale occupando casa loro, saremo tutti più contenti. Vi devo dare alcuni aggiornamenti che mi hanno appena portato. Allora, vabbè, chiudono tutti gli alberghi della Val d'Aosta fino al 3 aprile e poi Ryanair ha cancellato nuovi tagli sui voli per l'Italia. Beh, del resto, quindi Orio al serio, Malpensa, Parma, Treviso, Venezia e Rimini saranno drasticamente ridotti quelli internazionali. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, parleremo di borsa, parleremo anche dello scenario di carattere europeo, quell'iniziativa che deve essere congiunta di carattere europeo, daremo come sempre gli gli aggiornamenti per quello che riguarda Michetta, i casi. Adesso alle 18, come sempre, vi sarà il punto con per quello che riguarda la protezione civile. In Spagna la notizia di poco fa, si è arrivati a 1000 casi, il doppio di ieri, erano 589, oggi 999, e c'è un incontro di emergenza per valutare l'adozione di misure drastiche. Il maggior numero dei contagi in Spagna si registra a Madrid e nei Paesi Baschi. A Madrid sono aumentati di 200 unità nelle ultime 24 ore. Ci sono i primi due morti in Germania e la Germania ha superato quota 1000, siamo a 1112. Siccome è annuncio un pacchetto di aiuti economici, 12 miliardi e mezzo di investimenti fra il 2021 e il 2024, però dopo un vertice questa sera con i leader dei partiti della Grosse Coalizione che sostengono il governo di Angela Merkel, la von der Leyen ha detto: stiamo valutando una flessibilità del patto di stabilità, e ci mancherebbe. Spread, c'è un nuovo rialzo fino a 227 punti dello spread, che ha guadagnato, poi ha ripiegato 225, comunque siamo ai massimi dall'agosto del 2019. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, sì, quando si scia uno sciatore lontano dagli altri, andate a vedere le immagini del fine settimana delle code in tutte le località sciistiche, Trentino, Lombardia, Val d'Aosta, e poi mi dite se erano in coda a distanza di un metro uno dall'altro. E non ho niente contrario a chi va in montagna, al mare, a farsi una bella passeggiata e camminata utilizzando le misure di sicurezza. Andate a vedere le immagini, mi sta scrivendo anche alcuni ascoltatori che a Viareggio ieri si faceva a spallate per passare. E una cosa analoga me l'hanno raccontata anche in altri posti, sui laghi, insomma, vabbè, sì, sul lago di Garda mi è arrivato poco fa un altro messaggio. Allora, per quello che riguarda l'andamento degli altri, guardate che dalla Germania e dalla Francia si stanno abbastanza convincendo che la loro dinamica è quella italiana. C'è uno studio molto interessante, se tu vai a vedere il numero di casi a giorno, la Germania sta facendo esattamente quello che ha fatto l'Italia due settimane prima. Allora, nel senso che adesso la Francia, vedremo il nuovo aggiornamento, è a 1191, che è la soglia che avevamo noi sabato 29 febbraio, quindi diciamo una settimana, un po' più di una settimana fa, e vale sia per la Francia 1191 che per la Germania 1112. E stanno mantenendo quello che gli inglesi chiamano time lapse, una differenza temporale calcolabile appunto in 8-9 giorni, ma ahimè, lo dico perché non c'è nessuna gioia in questo, stanno seguendo la dinamica italiana. Molti mi stanno scrivendo di quello che è successo, sì, anche a Varazze, sembra Ferragosto, da quanta gente c'era, e cosa devo dire? Di quello che è successo tra sabato sera. Allora è chiaro che lì c'è stato un problema di una bozza che non doveva circolare, addirittura c'è chi dice che bisognava fare solamente contatti telefonici, le bozze vanno fatte circolare in situazioni normali, quando prendi provvedimenti normali, in modo che ognuno la possa valutare. Quando prendi un provvedimento così eccezionale e straordinario, che io non ricordo in questo paese, come la trasformazione in zona arancioni di aree in cui vivono 16 milioni di persone, la bozza era meglio che non circolasse, sennò il rischio fuga di notizie anche sbagliate è fortissimo, perché nessuno parlava di zona rossa, ma circolata l'ipotesi di zona rossa. E però un appello lo devo fare anche ad alcuni colleghi, perché cavolo, un senso di responsabilità serve anche ai giornalisti, e so benissimo a chi mi sto riferendo. Andate a vedere chi è uscito con le notizie per primo, lo dico con massimo rispetto ad alcuni colleghi anche del Corriere della Sera. Attenzione, perché se sai che è una bozza e dentro c'è il rischio di creare confusione tra zona rossa e zona arancione, il sottoscritto ha bloccato il GR delle 21 sabato sera perché rischiava di uscire con informazioni inesatte, le abbiamo corrette, l'8 e mezza. Allora anche il giornalista o la giornalista dovrebbe fare la cortesia di capire che sta maneggiando materiale molto sensibile, tra l'altro appunto del tutto incerto, in un periodo assolutamente per cui bastava aspettare un po', non voler fare per forza quella che ha la notizia e gli altri no. E chi, qualcuno sa a che mi sto riferendo. Poi che ci sia un problema di comunicazione sulla da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, certo, non sta a me tornare ad attaccare Rocco Casalino, però forse qualcosa non sta funzionando lì dentro, se si generano comunicazioni così improvvide, si fanno circolare bozze, insomma, no. Veniamo anche alla parte che riguarda invece il lavoro del Ministero dell'Economia e Finanze. Il MEF ha chiarito che ha fiducia nell'operato della Consob, le fonti della Banca d'Italia hanno detto che sono al lavoro sul DL per quello che riguarda le misure di sostegno alle imprese, le misure economiche saranno vigorose e temporanee, resta l'impegno al consolidamento dei conti, vabbè, ma non mi sembra in questo momento l'elemento principale. Tempi rapidi per il pacchetto delle, il governo si impegnerà affinché venga approntato in tempi rapidi un pacchetto di misure dell'Unione Europea in coordinamento con l'intera comunità internazionale. Devo dire che manca, l'Unione Europea ha fatto capire che l'orientamento è di dare flessibilità all'Italia, ripeto, e te credo. Problema è che a mio avviso a Bruxelles ancora non si è capito la portata del fenomeno, e non solo per quello che riguarda l'Italia, che comunque è il terzo paese dell'area euro. Mi sembra che ancora stiano ragionando con gli strumenti vecchi. Comunque, questa mattina il vice ministro dell'economia, ospite di Simone Spezia e Maria Latella, ai nostri microfoni, e mi riferisco a Antonio Misiani, ha detto c'è la garanzia pubblica per la moratoria sui mutui alle famiglie e imprese, stiamo lavorando appunto per una moratoria molto più ampia per i prestiti alle imprese e alle famiglie per garantire liquidità. E noi stiamo lavorando per una moratoria molto ampia dei prestiti alle imprese e alle famiglie, perché riteniamo che garantire la liquidità, in particolare alle imprese, sia un punto chiave in questa fase in cui gli effetti economici del coronavirus rischiano di essere particolarmente pesanti. Stiamo dialogando con la Banca d'Italia e stiamo immaginando anche forme di garanzia pubblica che aiuti il sistema bancario a sostenere nel migliore dei modi possibili questo intervento che sarà molto ampio per il suo impatto. Cioè garanzia pubblica per mutui e finanziamenti, Misiani? Una parziale garanzia pubblica dobbiamo... La stiamo studiando per assistere questa moratoria sui mutui alle imprese e alle famiglie. Gli ammortizzatori sociali sono previsti per i lavoratori dipendenti, ma non per tutti i lavoratori dipendenti, e questo pone un problema di estensione attraverso la cassa in deroga del fondo di integrazione salariale, e anche il tema delle partite IVA a partire dai settori maggiormente coinvolti. Per questa parte del mondo del lavoro. Per esempio, Misiani, a che settori pensa? Come è noto, settori come il turismo, la logistica, i trasporti, tutto quello che è connesso con la dimensione internazionale dell'economia, il settore culturale, tutto quello che è impattato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che come è noto rallenta o blocca intere attività economiche nel Paese. Ma sono i settori più disparati. Penso anche al settore educativo, a tante attività che oggi sono inevitabilmente bloccate per ragioni di sicurezza sanitaria. E che tipo di interventi immaginate? Noi stiamo ragionando sull'estensione di una moratoria nel pagamento di tasse e contributi. Allora, due agenzie, due contagi anche a Cipro, ora è tutta l'Unione Europea colpita dal virus, nel senso che non esiste un paese nell'Unione Europea che non abbia, che non sia stato colpito dal virus. Il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, parlando con alcuni giornalisti poco fa, ha detto: siamo pronti a usare diversi strumenti di policy per sostenere la nostra economia europea in questa complicata situazione, quindi lavoreremo con gli stati membri per coordinare le necessarie misure. Quindi la notizia è, insomma, pronti a usare altri strumenti. Mi scrive un ascoltatore che dice: guardi che in Nord Europa non c'è nessuna percezione della portata del fenomeno. Sono tornato venerdì da Oslo, dove ho partecipato ad una fiera, pure lei, non c'erano né mascherine né gente che controllasse in aeroporto i passaporti per i paesi di provenienza. È chiaro che non ero molto, molto gradito come italiano. Sì, infatti posso chiederle anche da dove veniva, da che area veniva, dall'Italia, come mai è andato a fare una fiera. Dunque, il contenimento sarà prolungato, va bene, un attimo, c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che il rischio di pandemia sta diventando molto reale. Che poi ha detto, ha aggiunto, in tal caso si tratterà della prima pandemia che potrà essere controllata. Vabbè, non è che questo mi faccia sentire molto meglio. Qualcuno mi chiede: sì, anche qui chiaramente, come in tutti i luoghi di lavoro, abbiamo adottato misure per cui tutti quelli che possono lavorare da casa sono a casa, misure anche igieniche sui microfoni, sul lavaggio delle mani, sulla temperatura che ci viene presa ormai da 2 settimane ogni volta che entriamo nel luogo del lavoro. Allora, andiamo dopo il metodo e la pubblicità. Siccome è questo quello che sta succedendo in borsa, a noi ha ricordato molto, ahimè, quello che abbiamo commentato in diretta durante, anche se le cause erano completamente diverse, anche i rimedi, mi riferisco al 2008-2009, cause diverse, perché lì lo shock era finanziario di mancata fiducia da banca a banca, e lì poterono intervenire, non ci muovemmo tardi come BCE, ma le banche centrali avevano un ruolo molto forte. Qui il problema è di una domanda che non c'è, perché se la gente deve stare a casa consuma meno, consuma sì generi alimentari, ma non fa altro tipo di acquisti. E dall'altra parte anche il problema della supply chain, come abbiamo spiegato, cioè della catena degli approvvigionamenti, che avendo filiere lunghe verso l'Asia, verso altri paesi, rischia di bloccarsi perché ti mancano i pezzi. Quindi, diciamo, da questo punto di vista non è come il 2008. Però siccome nel 2008-2009 intervenne ai nostri microfoni un piccolo imprenditore, il 18 giugno 2009, che ci scrisse: guardate, qua sembra che si sia spenta la luce, che qualcuno abbia spento l'interruttore. E noi lo chiamammo poi tutti gli anni successivi per capire, lo battezziamo anche indice Piccinelli, per capire se una piccola realtà in provincia di Brescia poteva diventare una specie di termometro della ripresa o no dell'economia. E ogni volta, in effetti, poi gli interventi furono migliori, nel senso che la situazione era andata via via migliorando. Torneremo a utilizzare l'indice Piccinelli dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, per quello che riguarda, ci sono poi delle storie che mi stanno arrivando, decine, anche molto personali. Ne voglio citare una. Mi ha appena scritto un panificatore, dunque un panificio ad Abano Terme, ha festeggiato 100 anni di attività l'anno scorso. In un'ora gli alberghi di Abano e Montegrotto si sono svuotati, hanno chiuso le mense scolastiche, sono chiuse quelle aziendali. Ho superato con fatica la crisi del 2008, questa volta non so proprio se ce la faremo. Ho chiamato l'associazione categoria. A questo punto mi conviene chiudere e licenziare tutti i miei dipendenti, o almeno loro tirano la disoccupazione. Io, chiudendo l'attività, mi faccio dare 500 euro al mese dall'INPS. Certo, un'umiliazione, ma quando sei disperato va bene così. Lo so, ci sono storie tristissime che mi stanno arrivando. Bisogna da un lato fare quello che prevedono le autorità, per favore, e dall'altro cercare di tenere il più possibile botta. Allora, la borsa, che cosa la commentiamo a fare? -11,20% è la seduta peggiore dalla Brexit. Onorevole Michele, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E grazie anche perché è tornato come ogni lunedì, chiaramente l'appuntamento è modificato visto il programma, anche Alessandro Praterotti, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera Sebastiano, buonasera. Sento male il telefono, chiaramente una delle misure che abbiamo preso è che tutti gli ospiti saranno al telefono nei prossimi giorni, mentre cerchiamo di posizionare l'audio e di migliorare l'audio di Praterotti. Eleonora, c'è poco da dire, nel senso che la lista l'ho già fatta io. Chi perde meno oggi? Di Assori -3,16, Pirelli -4,40, Recordati -4,60, Campari -5,60, Ferragamo -6,40, Amplifon -6,70. Tutti gli altri perdono tra il 7,30 di Terna al 21,50% di Saipem, che praticamente in un giorno si è mangiata un quinto della capitalizzazione, come Tenaris -21, come Eni -20,80%, -11,17% l'indice di Milano, -8,40% Parigi, -8% Francoforte, -7,20 Londra. L'America sta perdendo il 6,30%, evidentemente Wall Street prende le cose più seriamente di Trump. Eleonora. Sì, come hai detto tu, ovviamente è un bollettino da guerra, non c'è da commentare più di tanto, si vende e basta, veramente una manciata di titoli di piccole dimensioni hanno chiuso praticamente in territorio positivo, il resto sono, come hai detto tu, dei veri e propri tracolli, peggiori i titoli del comparto oil, ovviamente perché oltre al coronavirus c'è anche praticamente questa guerra tra i paesi all'interno dell'OPEC, la Russia, che non hanno trovato l'accordo la scorsa settimana e si è innescata una vera e propria guerra di ribasso sul prezzo del greggio. Poi vanno male ovviamente le banche, tutte in calo di oltre il 10%, perché ovviamente la situazione economica è drammatica e quindi in prospettiva potrebbero aumentare gli NPL. Diciamo che tentano di ridurre sotto il 10% le perdite, le utilities, anche se poi sul finale sono peggiorate. Come hai detto tu, Pirelli è stata una invece dei migliori, in quanto la società ha rassicurato, ricordando in primo luogo che il fatturato in Italia rappresenta poco più del 5%, che l'attività produttiva in Italia è sotto controllo nonostante le misure restrittive del governo e che peraltro la società è presente in Cina, ma in Cina l'attività sta tornando alla normalità. Indicazioni che hanno fatto, diciamo, bene tra virgolette al titolo, che ha arginato le perdite poco sopra il 4%, d'altra parte è un titolo che sta sui minimi storici e ben distante dai 6,5 euro, certo, dell'IPO avvenuta pochi anni fa. Allora devo fare una correzione, giustamente mi farò notare alcuni ascoltatori che ho salutato, il nostro ospite precedente Piccinelli, dicendo un abbraccio a tutti. Ecco, l'abbraccio era metaforico, chiaramente no, non si può abbracciare nessuno, se non fosse ancora chiaro, ma avete ragione, è giusto anche ricordarlo. Eleonora, grazie, non c'è molto altro da dire, l'euro su dollaro a quota 1,14. Allora, Alessandro Praterotti, poi dopo veniamo anche al resto, ma la polemica che la Consob ha cercato di smontare, dire non vediamo nessun elemento speculativo tale da chiudere la borsa, sono cali dovuti all'incertezza del settore, non c'è un elemento di speculazione. C'è una nota della Consob, che era il Ministero dell'Economia e Finanza, ha detto a noi basta quella. Molti mi stanno scrivendo avremmo dovuto chiudere le borse, ma in realtà, visto come vanno, poteva essere una soluzione? No, assolutamente. Chiudere le borse non è mai una soluzione per un motivo. L'esperienza insegna che alla riapertura tutti corrono a vendere, per la paura che vengano richiuse. Non bisogna fermare la protezione di quelli che sono i risparmi e degli investimenti. Semmai, e qui torniamo al discorso che facevi tu sulla Consob, meraviglia il fatto che la Consob è l'ultima delle autorità dei paesi più colpiti dal virus ad accorgersi della questione dello short selling. Cioè la questione vera qui è che avremmo dovuto bloccare già da una settimana, come hanno fatto del resto, ve lo dico, tutte le borse asiatiche, tutte, nessuna esclusa, hanno bloccato subito lo short selling. Risultato? Il nesso non è proprio diretto, però ha influito molto. La borsa cinese è l'unica borsa del mondo che, pur perdendo adesso, ha recuperato tutte le perdite che aveva accumulato da dicembre, quando la notizia del virus si era diffusa. Ora si può discutere molto sul perché, sì, la Cina, la borsa cinese vada bene, ma attenzione, perché quello di oggi si chiama capitolazione. È un momento molto importante perché normalmente i grandi crolli segnano delle svolte. Ora, sarà una svolta positiva o continuerà? Questo è un punto. No, ecco, Alessandro, mi interessa moltissimo questo ragionamento, perché poi io e te purtroppo, lo dico perché eravamo assieme, non perché mi... eravamo anche in diretta nel 2008, ottobre del 2008, abbiamo fatto intere giornate di diretta con Lehman Brothers e quello che stava succedendo sui mercati, quindi ci tengo ad averti dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. One Express, il pallet Express. Vi presenta Focus Economia. Molti mi stanno scrivendo sul fatto che non sarà nulla più come prima. Guardate, ne parlavamo anche con Giulio Sapelli venerdì, ma questa è la fine della globalizzazione già molto compromessa da Trump, Brexit, dazi e quant'altro per come l'abbiamo conosciuta. È troppo presto, però stiamo ancora gestendo l'emergenza. Ma è ovvio che fra qualche mese la riflessione sarà su tutto, sulle filiere produttive così lunghe. Chi se la sentirà più di avere tutta la componentistica che arriva dall'Asia? È ovvio. Ci sarà probabilmente un reshoring, che non è neanche, cioè un riportare alcune attività più vicine, che non è neanche detto che sia un male. Ma insomma, è chiaro che questa cosa qui non finisce, non finirà quando, io mi auguro, il prima possibile potremmo dire che l'epidemia sta, come è avvenuto nel Wuhan, come è avvenuto nell'Odigiano, lo diceva prima Gallera, l'unica area virtuosa dove i cali stanno calando è l'Odigiano. Professor Bordignon, lei insegna scienze delle finanze ed è direttore dell'Istituto di Economia e Finanza alla Cattolica di Milano, editorialista sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a lei. Ufficialmente, l'ho già molto citata prima. Allora, senta, Platerotti l'ho ascoltato, le dice guardate che in questo momento quello che manca ai mercati è, perlomeno anche in Europa, è un'azione coordinata di tutti i paesi, anche a partire dalle regole, perché qua alcuni fanno tanti tamponi, tipo l'Italia, altri ne fanno pochi. La sensazione è che se si continua a procedere in ordine sparso, visto che Francia e Germania hanno un time lapse, un ritardo più o meno di 10 giorni, cioè sono ai casi che avevamo noi tra sabato 29 e domenica 1 marzo, vuol dire che magari potrebbe iniziare a scendere il picco da noi e continuare a salire in Francia e Germania, cioè, e poi anche un'azione coordinata di carattere economico. No, io sono d'accordo con questo, cioè qui si scontra il ritardo dell'Europa, sia sul piano sanitario dove ci sono delle possibilità di accordi di carattere generale, ma non c'è un potere specifico consegnato all'Europa, non c'è perché i paesi non gliel'hanno dato ovviamente, sia sul piano economico perché si sta parlando da molto tempo della possibilità di introdurre una sorta di fiscal capacity a livello europeo che permette di intervenire a sostenere l'economia, e ancora non c'è questo. La politica fiscale è affidata a ciascun singolo paese e quindi i paesi si muovono soltanto in modo coordinato, e quello che si rischia è quello che sta dicendo lei, quello che mi aspetto succedere io è già successo in passato, la sindrome del troppo poco in ritardo, quando si dovrebbe cominciare a agire invece immediatamente. Le cose avverranno, ma avverranno probabilmente con ritardi e pagheremo dei costi e potremo fare a meno di evitare, mettiamola così. Allora, chi mi chiede se oggi non c'è l'aggiornamento della protezione civile, oggi arriverà alle 18.30, lei sta dicendo una cosa importante adesso. Era ovvio che sulle borse si sarebbe scaricato quando anche Germania e Francia iniziano a viaggiare ampiamente sopra i 1000 casi con una progressione identica a quella italiana. Si sarebbe scaricata la tensione, abbiamo visto il petrolio poi crollare ed è ovvio che lì poi partono pure le banche che sono esposte sul petrolio, però io non vorrei che a danno si continuasse a sommare danno, cioè vuol dire abbiamo molte imprese del commercio che sono in ginocchio, turismo, alberghi e tutto quello che ruota attorno, mi hanno scritto molti ascoltatori anche su tutti quelli che forniscono i pasti alle mense che sono chiuse, oppure quelli che forniscono altro tipo di attività. Altri settori che stanno tenendo un po' meglio, laddove le forniture non sono bloccate, meccaniche e quant'altro. Però vuol dire, se non arriva un segnale qua a Bordignon, la borsa cosa deve fare di giorno in giorno? Dunque, io mi aspetto che questo segnale arrivi. Secondo me c'è stata per il momento una sottovalutazione sia da parte delle autorità monetarie, che poi anche centrale europea è l'unica istituzione veramente federale che abbiamo in Europa, sia da parte europea. Per il momento si sono sentiti la settimana scorsa, hanno detto valuteremo gli effetti e poi vedremo che succede. Quello che mi aspetto è che via via, se la situazione, come pare probabile, siccome non credo anch'io come lei che il virus ami particolarmente gli italiani, amerà anche i tedeschi e i francesi nello stesso modo, la situazione si aggrava lì con un ritardo anche rispetto a noi, a quel punto, anche perché pressati dalle proprie opinioni pubbliche, cominceranno a reagire. Potevano farlo un po' prima, perché non ci voleva il genio della lampada per capire che la situazione... No, più che altro glielo stiamo dicendo da giorni interi, guardate che tutte le proiezioni ci portano a dire che anche in Francia e in Germania arriverete, e io vi invito a guardare quello che ha pubblicato un professore del Koch Institute, ha mostrato come si è mossa l'Italia nella settimana tra il domenica 23 e domenica 1 e come si è mossa la Germania dieci giorni dopo. Identici, certo. Cioè ci sono 4-5 casi di differenza, cioè noi siamo passati da contagiati totali, parlo, 78, poi 236, poi 333, poi 415, poi 712, poi 880, poi 1128 da domenica 23 a sabato 29, e loro hanno fatto esattamente lo stesso excursus. Sì, questo è vero, anche se poi bisognerebbe dire che questi numeri non capiamo esattamente come sia, perché il vero problema di questi sono quelli che sono stati trovati positivi. È sì. Probabile che ce ne siano molti altri che non osserviamo. In Italia anche il tasso di mortalità probabilmente appare così elevato rispetto anche a altre cose, ma perché ce ne sono molti e non abbiamo registrato. Molti. Senta, la convince quello che diceva Platerotti, bisogna ripensare delle misure che non possono essere quelle del 2008 dove la crisi era finanziaria e bancaria, ma quelle del 29-30 dove insomma... E il problema è che la gente non lavorava e non consumava, e quindi arrivare direttamente al reddito, non tanto alle agevolazioni, sì, che sono importanti, fiscali, mutui, le tasse, i tassi zero, ma entrare nel reddito? Ma insomma, fino a un certo punto, diciamo così, quello che io credo c'è stato, questo è stato fondamentalmente, era anche il motivo dell'articolo mio su Sole 24 Ore di oggi. Questa è una crisi che colpisce molto l'offerta, perché che naturalmente si bloccano le catene del valore, la gente non può lavorare e quindi anche se ci fosse domanda non si riesce a produrre. Però ci sono degli effetti molto forti sulla domanda su cui noi dobbiamo continuare a intervenire. Quindi secondo me non è vero, la politica monetaria non può fare più nulla, allora, non so se si deve arrivare all'helicopter money, ma certo si possono trovare altri meccanismi per garantire i debiti pubblici e anche per intervenire a sostegno per esempio del settore bancario, incentivando prestiti a tassi zero, addirittura negativi, dando i soldi alle banche perché li prestano alle imprese e così via. E poi contemporaneamente si può fare anche qualcosa sul lato della domanda aggregata. Chiaro che in Europa in questo momento la politica monetaria ha già speso parecchie cartucce, spazio per una politica fiscale. E lì le possibilità di intervento possono essere diverse, e al vero minimo un accordo collettivo per incominciare a spendere più soldi e a rilanciare l'economia. Il problema, come le ripeto, sì, è che non abbiamo ancora quegli strumenti a livello europeo che ci permettono di fare questo passaggio. Dobbiamo adattarci con tutti i paesi che si convincono bisogna andare. Sì, che i paesi del nord, siccome ne hanno meno, si cominceranno più tardi, e quindi noi restiamo con i 7 miliardi e mezzo. Vedremo domani, torneremo anche sull'Europa, ci mancherebbe. Visto che ho criticato molti concittadini italiani per come si sono comportati anche in questo fine settimana, e qualcuno mi dice ma i politici, guardi, le faccio un esempio, l'onorevole Barbara Saltamartini ha pubblicato su Facebook della Lega, ma è un di cui questo, una festa alla quale ha preso parte a Terni in una casa privata con 60 persone per celebrare la vittoria della candidata leghista Valeria Alessandrini alle suppletive in Umbria. Saltamartini, lo vogliamo capire che non si possono fare le cose con 60 persone e pubblicare su Facebook? Lei è anche un onorevole, ma porca miseria. Grazie anche al professor Bordignon, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, sta iniziando la conferenza stampa della Protezione Civile, tutti i dati verranno forniti nel GR delle 19.